Italia in controluce, la politica nel tunnel. Non è ancora la prima seduta, che sarà invece venerdì, ma stamattina è stato comunque il debutto per molti di loro. Giornata infatti di disbrigo burocratico per i neoparlamentari eletti, giornata di registrazione per tutti loro. E allora sentiamo come sta andando quello che abbiamo chiamato un po' lo sbarco delle matricole alle Camere. Ci colleghiamo in diretta con la nostra redazione di Roma e con il nostro Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Tu hai seguito questa sorta di primo giorno di scuola, perché molte sono facce nuove. Sì, è così, primo giorno di scuola e il clima è simile, sia perché i palazzi qui del Parlamento, ma anche del Senato, ricordiamo al Senato che si inizierà alle 15, non sono abituati, almeno nell'ultimo periodo della legislatura, a questo clamore, sia nella presenza fisica di persone qui, sia anche proprio per il vocio che si sente nei vari corridoi e poi nella sala del mappamondo, dove i parlamentari arrivati sin dalle 9 di questa mattina devono presentarsi, documento di identificazione, codice fiscale alla mano. Tutto ciò permetterà di ottenere, quindi nel giro di qualche giorno, il tesserino famoso per le votazioni elettroniche e poi le credenziali per l'accesso ai servizi informatici e anche poi c'è tutta una spiegazione ai vari deputati sulle loro prerogative parlamentari più alcuni dettagli tecnici. Sì, perché in effetti se n'era parlato, no? Nei giorni scorsi molti sono volti nuovi, dicevamo, molte sono persone alla prima esperienza politica e giustamente arrivando dal basso, come peraltro voglio sottolineare insomma con grande forza, magari non conoscono benissimo i meccanismi parlamentari, che sono piuttosto complessi. Si era parlato addirittura di un corso per loro, e naturalmente ci riferiamo soprattutto ai grillini. È così? Ne sai qualcosa? Sì, allora ci dovrebbe essere questo corso che non sarà, come lo possiamo immaginare, tradizionale in aula di scuola, ma saranno delle indicazioni in PDF che ogni parlamentare riceverà nella propria casella mail. Dicevi giustamente del grande rinnovamento che c'è stato in Parlamento. Consideriamo solo che alla Camera, ma le proporzioni valgono anche per il Senato, c'è stato il ricambio del 60% dei parlamentari rispetto alla scorsa legislatura, quindi su 630 possiamo arrivare a 370, se non 380 nuovi deputati. Bei numeri, e questi, certo. Di questi ben 250 sono donne, quindi una quota del 40% in Parlamento. Allora Vincenzo, tu stamattina hai raccolto un sacco di belle voci, appunto delle matricole. Io comincerei proprio con il gruppo che desta maggiore curiosità, che è quello dei grillini. E non a caso, peraltro, tu hai intervistato una persona che non so se sia parente o meno, comunque si chiama Giulia Grillo del Movimento 5 Stelle. Allora sentiamola questa intervista. Giulia Grillo. E da dove viene? Catania. Eletta per? Sicilia 2. Il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle, sì. Siete emozionata oggi per questo primo giorno? Un pochino. Penso sia fisiologico. Certo. Senta, il fatto che il Parlamento abbia questa nuova veste con una percentuale molto più rosa, che significato le dà? Il significato che finalmente non c'è bisogno forse di imporre l'idea di una quota rosa, ma basta, è sufficiente una libera partecipazione dei cittadini. Senta, come arriva, con che spirito oggi qui in Parlamento, vedendo un palazzo contro cui avete combattuto, comunque un palazzo che si può aprire ai cittadini? Ma noi non abbiamo combattuto contro il palazzo, noi combattiamo contro delle logiche che sono state sempre prevalentemente a sfavore dei cittadini, anche se secondo me qui dentro qualcuno che ha fatto il bene per l'Italia c'è stato. Quindi credo che siano le persone che fanno la sostanza. Eh sì, è proprio così, è proprio così. Allora Vincenzo, dicevamo, sono sbarcati questi nuovi volti, perché invece alcuni non li vedremo più. Vogliamo citare qualcuno dei volti ormai noti della nostra politica che invece non vedremo più, almeno lì fra i banchi di Montecitorio e di Palazzo Madama? Assolutamente sì, tutti ricorderanno, adesso non andrò in un ordine di importanza, ma come mi vengono in mente, ricordiamo Crosetto del Popolo della Libertà, che aveva tentato poi nell'iniziativa di Fratelli d'Italia, ricordiamo, ecco qui stiamo alla Camera, il presidente Gianfranco Fini, eh già. Che la, Assolutamente, quindi il numero uno della vecchia legislatura che non sarà in Parlamento, e con lui il suo alfiere Italo Bocchino, e poi guardando a sinistra Di Pietro, non ha messo proprio piede mai in Parlamento Ingroia, che torna alla magistratura, e poi al Senato non ce l'ha fatta per esempio l'ex presidente del Senato Franco Marini, la radicale Emma Bonino, nomi importantissimi che hanno segnato un'epoca della nostra Repubblica. Anche Giulia Bongiorno, un'altra seguace, diciamo così, del presidente Gianfranco Fini, non ce l'ha fatta, e i cosiddetti trombati, passatemi il termine, sono tanti. Sono tanti, certo. Vabbè, nel bene o nel male, insomma, comunque vedremo delle facce nuove. Hai fatto riferimento a destra e sinistra, dove siederanno i grillini? Ecco, loro, per quelli che hanno parlato questa mattina, perché Pierre è stato veramente difficile farne parlare qualcuno, per quel poco che abbiamo capito, per loro non è importante dove troveranno posto, perché loro vogliono comunque distanziarsi dalla destra e dalla sinistra, e quindi evidentemente sarà poi questa una scelta lasciata ai capigruppo della Camera quando si riuniranno tutti insieme. E sarà curioso, insomma, vedere poi dove andranno a sedersi. Invece saranno sempre allo stesso posto quelli della Lega Nord, anche fra loro facce nuove. Vincenzo Miglietta ne ha intervistata qualcuna, sentiamo l'intervista vista a Marco Marcolin. Ah, sono Marco Marcolin. Prima volta anche per me venire giù, per cui non è che non sono riconfermato. La prima volta, vediamo cosa succede. Emozionato comunque? Sono emozionato, hanno imparato in tanti, imparerò anch'io. Ecco, ma visto la vostra esiguità qui in Parlamento, che ruolo pensa che giocherà la Lega? All'attacco, sempre. Come Totti. Comunque io non sono romanista, sono cagliaritano, quindi come Saum. Addirittura da Treviso cagliaritano? Certo, perché si ricordi che i sardi è un grande popolo, per cui popolo sardo, grande popolo, indipendentista, e anche il Veneto lo sarà. Ma rischia di essere questa una legislatura breve? Che ne so io, tanto io devo tornare a lavorare. Avete già un che lavoro fa lei? Io sono commerciale di un'azienda primaria a Treviso. Sono responsabile commerciale. Siete stati comunque scavalcati dai grillini? Scavalcato, loro hanno interpretato male il malcontento, ma forse adesso si devono assumere, come dicono tutti, le responsabilità, facciano loro. Il malcontento non è che si porta qualcosa nel paese. Sicuramente anche a noi, forse più a noi, magari hanno valutato male, pensavano che i grillini portassero via solo la Lega, e invece ha portato via anche gli altri, soprattutto il Sud. Per cui poi non è che è mai contento mezzo gaudio, però... Un cagliaritano con accento veneto, questo Marco Marcolin. Vincenzo, una domanda, tu che lavori lì fra quei saloni, fra quelle stanze, è vero che sono state tolte nei giorni scorsi, in questi lavori di preparazione, insomma, delle due camere, sono state tolte le targhette solo per i deputati, perché si teme, insomma, che questi simboli, diciamo, della casta siano mal visti soprattutto dai grillini appena arrivati in questi giorni in Parlamento? Sì, te lo confermo, simboli che segnalavano che i parlamentari avevano la precedenza, per esempio alla posta, ma anche alla buvette, quindi se arrivava un parlamentare passava davanti a tutti. Sono stati tolti. I parlamentari hanno più, insomma, hanno fretta, no? hanno più fretta, fame, sì, anche alla buvette, sì, di assolutamente. Altri. La stessa buvette adesso si presenta in maniera molto più spoglia, quindi c'è stato un restyling al ribasso, diciamo così, della Camera e del Senato. Un'ultima curiosità, avevano tutti giacca e cravatta? Perché anche di questo si è discusso nei giorni scorsi, assolutamente non sarà messo nessuno senza giacca e cravatta, hanno rispettato tutti questa indicazione? Sì, tutti hanno rispettato la giacca e la cravatta, anzi i grillini si riconoscevano proprio perché erano tutti abbastanza impettiti in questi completi che evidentemente insomma, il primo giorno di scuola bisogna mettersi il vestito buono. Li abbiamo, no? conosciuti. Invece una cosa carina è che un parlamentare donna, logicamente, ha portato il bambino, e il marito che la accompagnava chiedeva se c'era un nido qui a Montecitorio. Il nido non c'è, chissà che magari in futuro grazie sarebbe ai grillini, una bella idea, certo. Sono tutte più giovani le donne, quindi in età da figli. Mi pare che il nido se lo fosse fatto la Presti Giacomo, no? Quando era ministro, che appunto ebbe sua figlia. È così, sì. Vincenzo, grazie mille per questo spaccato della giornata. Naturalmente con te continueremo a seguire questa giornata, questo sbarco delle matricole. Nel pomeriggio lo ricordiamo al Senato, questa mattina invece alla Camera dei Deputati. Grazie dunque alla nostra redazione romana, a Vincenzo Miglietta. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Italia in controluce torna domani mattina alle 13:30. Un saluto da Maria Piera Ceci.